1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Alle 7:18 minuti, eccoci qua, cari italiani, cari amici, debosciati, che state facendo? Siete già pronti per le vostre lunghe giornate di lavoro? Oppure siete ancora ad attardarvi nei vostri ritmi lenti, lenti della mattina? Forza, forza! Vi ricordo che alle 7:19 ormai parleremo un po' di cronaca nera, perché su tutti i giornali le prime pagine sono conquistate da questa vicenda. Intanto il fermo del presunto assassino di Yara Gambirasio, 4 anni dopo l'omicidio, pare davvero che sia ormai certa la svolta. E poi nel giorno in cui già la cronaca nera si era imposta per questa vicenda di questo signore, questo uomo di Motta Visconti, che ha confessato di avere ucciso la moglie, avere sgozzato i figli e poi essere andato tranquillamente a vedere la partita Italia-Inghilterra sabato scorso. Davvero la cronaca nera si impone nei titoli dei giornali, ne parleremo con Gianluigi Nuzzi. Alle 8:15 parleremo anche un po' di politica, di questo dialogo sulle riforme nel giorno in cui io non ci potevo credere, ma lo abbiamo fatto sentire, l'ho udito con le mie orecchie, l'ha udita tutta Italia. Renzi dice: questa è la settimana decisiva per le riforme. Io sapete che tengo il conteggio, siamo alla 59esima per la precisione settimana decisiva di questa legislatura, iniziata col governo Letta e poi col governo Renzi, ma questa è quella decisiva. Staremo a vedere, tra 3 giorni è finita e vedremo, se no ci sarà la 60esima e non ci perderemo d'animo. Intanto andiamo a leggere i giornali. Questo martedì 17 giugno i titoli, il Sole 24 Ore apre con le anticipazioni che Renzi ha promesso ieri all'assemblea, tra l'altro, degli industriali a Vicenza, in provincia di Vicenza, sul nuovo fisco. Il modello 730 a domicilio a 35 milioni di contribuenti. Questa è la, diciamo, apertura, è quello che prevede il decreto che venerdì dovrebbe ricevere il via libera del governo, ed è l'apertura del Sole 24 Ore. Poi, come dicevo, la cronaca nera, soprattutto con la svolta per l'omicidio di Yara Gambirasio. Il Corriere della Sera apre così: uccise Yara, tradito dal DNA, fermato il presunto assassino, sposato, 3 figli, non risponde. È lui l'assassino di Yara, questo è il titolo di apertura di Repubblica. Per la Stampa invece: Yara incastrato dal DNA. L'Unità invece la vedremo tra poco, perché è un'apertura politica. Il Messaggero invece: preso l'assassino di Yara. Il Giornale mette insieme sia la vicenda di Yara Gambirasio che quella di Motta Visconti. Il titolo è: peggio che assassini, schifezze d'uomini. Questo è il titolo di prima pagina. Dicevamo invece sulla politica: l'Unità, Grillo scomunica Grillo, è dunque il dialogo sulla legge elettorale. Libero invece: prima ci tassano, poi ci derubano, nel giorno della spremuta fiscale l'ennesimo episodio di corruzione tra Agenzia delle Entrate, Equitalia e Finanza. Queste alcune delle aperture dei giornali. Voglio andare subito a cominciare a leggere quelle che sono le pagine di cronaca nera, con la svolta soprattutto nel delitto Yara Gambirasio. È stato fermato ieri Massimo Giuseppe Bossetti, 44 anni, padre di 3 figli, che si trova in questo momento in carcere, non risponde, anzi il suo avvocato dice è sereno e ha deciso di non rispondere alle accuse dei magistrati. È lui l'assassino di Yara, questa è la certezza degli inquirenti, come racconta Piero Colaprico in prima pagina di Repubblica. Quanto l'hanno cercato senza mollare mai. Ora che conoscono l'assassino, tutti gli indizi stanno tramutandosi in prove, a cominciare dal telefonino di Massimo Giuseppe Bossetti, 44 anni, che viene spento alle 17:50 nella zona dove Yara sta per sparire il 26 novembre 2010. In quella zona Bossetti vive, a 3 chilometri dal luogo del delitto, e a Mapello, nel cantiere del centro commerciale, si era concentrate all'inizio le ricerche. Era tutto a portata di mano, l'assassino è uno del posto, ma c'era come un'ombra che impediva di vedere. La caccia all'assassino non ha mai avuto pause, nemmeno quando è stato commesso un grave errore tecnico, scambiando nel laboratorio il DNA dell'assassino per quello di Yara. Sarà forse l'incensurato Bossetti a svelare perché ha voluto uccidere Yara? Perché scegliere lei? Per il momento si avvale della facoltà di non rispondere e mantiene, così come sua madre, un atteggiamento durissimo. Viene da chiedersi se madre e figlio assassino ne abbiano mai parlato di quelle loro colpe diseguali, se si sono messi a parte del segreto, lei traditrice, parola che oggi fa quasi ridere, lui assassino e violentatore. Perché racconta questo Colaprico? Perché spesso si è raccontato che gli inquirenti sapevano un particolare di tutta questa vicenda, e cioè che il presunto assassino era il figlio di una persona, il figlio illegittimo di una persona scomparsa, una persona che era un autista di autobus di Gorno, che aveva avuto un figlio fuori dal matrimonio, e quindi il padre era morto nel frattempo, e si cercava appunto questo figlio illegittimo, tanto che Fiorenza Sarzanini racconta molto bene proprio la ricerca. Il titolo dell'articolo che inizia in prima pagina del Corriere della Sera è «L'amante degli anni 70 e i 18.000 DNA, così hanno trovato la madre di Ignoto 1», così l'ha definito, Ignoto 1. Ebbene, racconta Fiorenza Sarzanini una lista di 525 donne che nel corso degli anni avevano avuto almeno un contatto con Giuseppe Guerinoni, l'autista di Gorno, individuato come il padre di Ignoto 1, l'assassino di Yara. Parte da qui l'indagine che ieri ha fatto finire in carcere Giuseppe Bossetti. La svolta venerdì, quando il test comparativo del DNA fa match. Esther Arzufi, 67 anni, è la madre di Ignoto 1. Negli anni 70 viveva a Parre, è stata l'amante segreta di Guerinoni. Nel 70 ha avuto da lui due gemelli. Al maschio ha dato lo stesso nome di battesimo di Guerinoni, la femmina l'ha invece chiamata Laura, esattamente come la moglie di Guerinoni. Un incrocio perverso che adesso giunge a nuovi inquietanti misteri. La vicenda. Il resto lo hanno fatto le verifiche delle celle telefoniche alle 17.45 del 26 novembre 2010. Il cellulare di Giuseppe Bossetti risulta essere nella zona della palestra. L'uomo fa una telefonata, un'ora dopo si perdono le tracce di Yara. Il cellulare dell'uomo rimane muto fino alle 7 del mattino successivo. E cosa sia accaduto in quelle 13 ore? Ora sarà lui a doverlo spiegare. Ecco, racconta ancora Fiorenza Sarzanini, si è andato a verificare amiche, conoscenti, passeggere del pullman che Guerinoni guidava facendo il giro della Val Brembana. Tutte le donne vengono schedate, sottoposte al test del DNA. Si cercano prima di tutto ragazze madri, ma senza escludere che in realtà anche lei fosse sposata. Si allarga il cerchio a tutti gli altri paesi della zona. Il lavoro viene fatto dagli investigatori del ROS e dello SCO. È certosino perché anche un dettaglio apparentemente insignificante può fornire il tassello decisivo. Alla fine gli esperti non ci credono, il codice di Esther Arzufi è perfettamente identico a quello della madre di Ignoto 1. Scattano gli accertamenti, si ricostruisce la vita della donna, si scopre che nel 66 ha sposato Giovanni Bossetti e con lui viveva a Parre, lo stesso paese di Guerinoni. Quando rimane incinta decide di andar via, si trasferisce a Terno d'Isola dove dà alla luce i due gemelli. È suo marito a riconoscerli, li tratta come fossero suoi. Dopo qualche anno arriva anche un terzo figlio. È comunque la pista giusta, ma non bisogna scoprirsi, è fondamentale non fare un passo falso. Gli specialisti del ROS decidono di non effettuare verifiche ulteriori sulla madre. È l'identikit del figlio che sembra combaciare con quello dell'assassino, fa il muratore, e l'autopsia ha accertato che nei polmoni di Yara c'era polvere di calce proveniente da un cantiere, nelle scarpe c'erano piccolissimi tondini come quelli usati nell'edilizia. L'uomo viene individuato, tenuto sotto controllo, domenica scatta un controllo casuale, transita su una strada verso Seriate, lo fermano, lo sottopongono all'alcol test, ma nessuno si preoccupa di sapere se abbia bevuto. L'unica notizia fondamentale è recuperare la sua saliva e poter effettuare la comparazione del DNA. Il reperto viene analizzato e il risultato è clamoroso. Match, cioè corrispondenza con il DNA corrispondenza al 99,99%, ed ecco quindi la svolta e l'arresto. Tra l'altro su Repubblica Paolo Berizia, pagina 4, racconta la storia di 8 detective invisibili che non hanno mai concesso un'intervista, non hanno mai fatto un'apparizione in TV dicendo o fai o parli, e se fai non puoi parlare. Ecco come hanno raccolto 18.000 DNA, che a dirlo è facile, raccontano loro, ma a farlo è ben più complicato. 18.000 provette per cercare la verità, alla fine siamo arrivati alla madre del killer. Così raccontano sotto anonimato a Repubblica, Paolo Berizzi racconta la loro storia di questi 8 detective invisibili che appunto nell'ombra sono riusciti ad arrivare a questa che pare davvero una clamorosa svolta. Tutto questo ha posto quasi in secondo piano un altro terribile fatto di cronaca, che è quello di Motta Visconti, dove Carlo Lissi ha confessato dopo 24 ore, dopo alcuni serrati interrogatori, di avere sterminato la propria famiglia, la moglie e poi Giulia, la figlia di 5 anni, insieme a Gabriele di 20 mesi. Dopodiché, dopo averli pugnalati, sgozzati nel caso dei figli, si è vestito, si è fatto la doccia, è andato a vedere tranquillamente Italia e Inghilterra. Questo, ovviamente, questa lucida follia è ciò che più sconvolge. Ci sono anche interviste, analisi degli psichiatri. Vittorino Andreoli, che viene intervistato, e dice chiaramente vedeva nella famiglia un ostacolo che non poteva rimuovere se non così nella sua mente. Si racconta anche di questa collega di cui si era invaghito, tutti raccolgono alcune testimonianze di questa 24enne che lavora in un'azienda di Assago, che dice sì, si era invaghito di me, non è mai successo nulla, continuava a insistere sul lavoro con diciamo un'insistenza anche sempre più invadente. E lui stesso, l'assassino, con reo confesso, che dice mentre uccidevo mia moglie lei chiedeva perché lo fai. Evidentemente l'unica testimonianza ai magistrati è la sua, e quindi racconta quasi liberandosi la coscienza di questa cosa, e poi aggiunge: ora per favore datemi il massimo della pena, dovevo ucciderla perché anche il divorzio non avrebbe cancellato i figli. Da qui la terribile decisione di uccidere anche loro. Ci sono tanti editoriali. Ripartirò magari da uno, quello di Ferdinando Camon, scrittore, che fa alcune riflessioni profonde sulla stampa a proposito soprattutto di Yara Gambirasio, tra poco dopo la pubblicità. So manovrare notizie grosse e piccole, se notizie non ci sono so lavorare di fantasia. Alessandro Milan, l'asso della manica dell'informazione. Beh, qui siamo veramente alla poesia cinematografica. Grazie, grazie carissimo ascoltatore. Dicevamo, oggi la cronaca nera ovviamente apre tutti i giornali. Vi annunciavo di questo commento tra i tanti che trovate ovviamente sui due terribili fatti di cronaca, soprattutto quello di Yara Gambirasio. Ferdinando Camon, che è uno scrittore, in prima pagina della Stampa, il titolo è Il dramma di una mamma che sapeva. Scrive Camon: rieccola finalmente Yara, salta fuori dai giornali e dai siti, sempre in quella posizione della spaccata che le riesce così bene, porta ai denti l'apparecchio, lo mostra con disinvoltura, ormai si è abituata, ce l'ha da un po' di tempo, ci guarda serena, infinite volte abbiamo visto quella foto, ma fino a ieri la sbirciavamo di sfuggita con un senso di colpa e le chiedevamo scusa, facciamo quel che possiamo, ma non riusciamo proprio a trovarlo, chissà dov'è, sarà morto anche lui. Adesso la rivediamo, la sua foto balza fuori da tutti i siti e noi restiamo a fissarla per il tempo di un breve dialogo. Hai visto? Sei contenta? Che stupida domanda. Lei voleva ciò a cui aveva diritto, povera ragazza, vivere. Ma è l'ebbrezza del momento, straparliamo tutti. Il sindaco del paese ha perfino esclamato «Sono felice!», come se ci fosse un senso oggi a parlare di felicità. Ma Yara era un lutto per tutti noi. Prendere chi l'aveva uccisa era un desiderio perenne in tutti noi. Finché non l'avessimo preso non saremmo stati in pace. Chi ha ucciso lei ha colpito una parte della nostra famiglia, ci ha fatto del male personalmente. E poi, scrive ancora Camon, quando è uscito l'identikit del presunto assassino? Ha una madre? È sposato? Ha figli? Ci siamo chiesti tutti. Chi fa queste tre domande si aspetta tre risposte negative, perché uno che fa una porcheria del genere non può sapere cos'è una madre. L'ha perduta, non l'ha mai conosciuta, è un nemico della vita, perché la vita gli è stata nemica. Non può avere moglie e figli, perché se ha figli sa che perdere un figlio è più tremendo che morire. I figli sono le catene che ti bloccano nella vita e ti impediscono di fare le cose gloriose. E invece in questo caso non va così. Se l'assassino è questo, egli ha madre, ha mogli, ha figli. Sono arrivati a fermarlo costruendo un identikit biologico. Una volta cercavano l'assassino costruendo il suo identikit psicologico. Come deve essere psichicamente l'assassino? Un maniaco? Un represso? Senza donne? Senza figli? Solo? Con la madre vecchia? Consultavano psichiatri, psicanalisti, scrittori. Siamo sinceri, non indovinavamo mai. Non avremmo indovinato neanche stavolta. Beh, certo, sono tante riflessioni che sono scaturite da questi terribili fatti di cronaca, e ripeto, oggi gran parte delle prime pagine dei giornali sono dedicate a questo. Se vogliamo cambiare tema, assolutamente registro, andiamo a che cosa? Alla politica, alle riforme. Renzi ieri ha detto è la settimana decisiva per le riforme. È abbastanza incredibilmente per noi che qui le contiamo le settimane decisive. Comunque, come racconta il Sole 24 Ore, Renzi dice cambiamo insieme il paese. Sulle riforme non mollo, come racconta Emilia Patta, pagina 4 del Sole. È il momento di passare dalle parole ai fatti, chiedo il vostro aiuto, ha detto così rivolgendosi all'assemblea di Confindustria a Vicenza, dove ha partecipato. Voi che siete capaci di fare, fate sentire la vostra voce, perché o cambiamo insieme questo paese o non lo cambia nessuno. È andato dunque sul territorio dai 3.000 imprenditori riuniti dai capannoni industriali dell'area Perlinia Gambellara, terra di confine tra Verona e Vicenza, tra il veronese e il vicentino, per l'assemblea congiunta di Confindustria di Verona e Vicenza. E così ha parlato Matteo Renzi. Tra l'altro si è consultato anche con Napolitano, come racconta il Corriere della Sera, con Marzio Breda, che è il quirinalista, racconta tutto ciò che succede attorno al Quirinale. Così Renzi ha detto a Napolitano: caro Presidente, negli ultimi tempi mi è capitato di dover spiegare più volte le ragioni sulle quali si fonda l'esigenza di riformare il Senato. Ho usato il racconto che mi aveva fatto lei del travaglio vissuto dal Partito Comunista nella Commissione dei 75, incaricata di redigere il testo di carta costituzionale, con forti ondeggiamenti verso una soluzione in grado di superare lo schema del bipolarismo. Sono stato persuasivo, anche se lo confesso, non ho rivelato che il copyright di quella ricostruzione storica era suo. Così, questa è la ricostruzione del dialogo di Matteo Renzi con Giorgio Napolitano, che è il capo dello Stato, che invita Renzi a dire parlare con tutti. Già, ma parlare anche con il Movimento 5 Stelle? Questo è il tema politico del giorno, perché ci eravamo lasciati dicendo che Renzi doveva incontrare Berlusconi e pare che in settimana lo farà. Inizialmente dicevano oggi, martedì. Evidentemente, a meno di clamorosi sviluppi, non ci sarà l'incontro oggi, ma forse ci sarà l'incontro in settimana tra Renzi e Berlusconi per rilanciare il patto del Nazareno. Ma adesso è arrivata l'inaspettata apertura del Movimento 5 Stelle, che hanno presentato ieri il Democratellum. Questa è la proposta di legge. È stata illustrata ieri da Danilo Toninelli, un militante del movimento, che dice: eccolo qui il Democratellum. In un'intervista al Corriere della Sera, ad Alessandro Trocino, a pagina 10-11, Danilo Toninelli dice: eccola qui, è la nostra proposta di legge, perché l'Italicum è schifoso, mentre il nostro Democratellum è ottimo. Tanto che Trocino dice: mi scusi, ma queste sono le premesse per il dialogo, non credi di esagerare? È il senatore, è senatore Toninelli. Forse sono troppo autoreferenziale, dice Toninelli. Comunque l'Italicum è morto e sepolto, è incostituzionale. Non si può partire da lì a un premio di maggioranza folle, non dà la preferenza agli elettori. Sulla nostra proposta invece vogliamo aprire una discussione. Ci sono principi cardine diversi dall'Italicum, non vogliamo toccare, ma sulle tecnicalità si può discutere. Qui poi, per carità, si addentra sulle tecnicalità. tecnicalità della riforma elettorale ve le risparmio, come tutte le tecnicalità di tutte le riforme elettorali, perché non voglio avere sulla coscienza un vostro incidente in macchina. Voglio salutare invece Mauro Meazza, buongiorno, grande esperto di riforme elettorali, lui ve le può spiegare dal cangurum al... Sì, buongiorno Alessandro. Ti ricordi? Ma il Milanellum, non potresti presentarlo? Un Milanellum. Potrei presentare il Milanellum, effettivamente, non è male. Non lo so, trovi un punto di compromesso tra le varie questioni. Sì, no? Sì. Ti ricordi che spuntò a un certo punto anche il cangurum dall'Australia, no? Il modello australiano, il cangurum. In tutta sincerità devo dire che me l'ero voluto dimenticare, però. Il cangurum è stato uno dei massimi momenti del dibattito. Comunque 59esima la settimana decisiva. Sì, sì, ma questa è decisiva, lo ha detto Renzi, hai sentito ieri. No, vabbè, allora Confindustria, e casomai ripartiamo da uno settimana prossima, mi sembra. Non lo so, non può essere. Senti, intanto ti voglio dire, a proposito di settimane di calendari, guarda che allora c'è finalmente il nuovo calendario per i pagamenti con il modello unico, perché è stato pubblicato nell'ultimo giorno utile il decreto che rinvia i pagamenti per gli contribuenti che sono soggetti agli studi di settore. Quindi oggi sul Sole 24 Ore, nella parte di norme tributi, c'è un grande calendario che riassume tutte le nuove scadenze. Rinviamo a quello. Non saranno così contenti però i professionisti di sapere che se hanno dei dipendenti anche part time, l'IRAP, te l'avevi dimenticata questa tassa, no? Certo. No, lo so che l'avevi trascurata per le nuove, la TASI, queste cose qua. Comunque, insomma, l'IRAP la devono pagare, così dicono le entrate, tutti i particolari, non in cronaca, ma naturalmente su norme e tributi. Hai pagato la TASI? Sì, certo, ovvio. Quindi non hai più neanche i 2 euro a questo punto. Ho dato fondo a un po' di più, ho dovuto rompere i salvadanai dei miei figli, ti rendi conto? Oh, santa pazienza. Comunque no, volevo dirti che come si spiega sul Sole 24 Ore di oggi, bisogna adesso capire com'è questa cosa che non ci saranno sanzioni se qualcuno ha sbagliato, perché servirebbe un provvedimento, insomma. Adesso non vorremmo essere troppo fiscali, scusa il gioco di parole. No, scusa, però Mauro, aggiungo che Renzi, ma testuale, non me lo sono inventato io, Renzi, Presidente del Consiglio, ieri ha dichiarato, (aperte virgolette) sulla TASI finora ci ho capito poco anche io, quindi se ci ha capito poco... Ma questo tu lo dici perché non vuoi essere interrogato sul punto, no, e poi, scusa, abbiamo leggi sul Sole 24 Ore, vedi che è tutto chiarissimo, no? Non riesco mandiamo a una copia a Renzi, mandiamo una copia a Renzi. A questo ma anche punto. Un abbonamento, magari. Possiamo vedere. Senti, per intanto leggi Beda Romano e Antonella Scott sul gas russo, perché lì con la vicenda dell'Ucraina non vorremmo che poi alla fine questi non hanno pagato la bolletta e ci sono anche altri problemi, come sai, tra questi paesi. Non vorremmo che l'inverno fosse un po' a corto di gas. Comunque sulla vicenda informiamo appunto oggi sul Sole 24 Ore. L'anno prossimo comunque è tutto a posto, ci saranno le dichiarazioni dei redditi precompilate, questo l'hai già detto anche nella nostra titolo d'apertura, quindi stiamo sereni. Stai anche sereno. Noi in qualche Meazza, modo. Stai sereno. Va bene, io lancio un altro hashtag, traffico. Ale che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan, oh, sempre l'ascolto, Il grandissimo Gabibbo, grandissimo in tutti i sensi. E allora, dicevamo ieri, come ci ricordava Mauro Meazza, è stato giorno di tasse, si è calcolato in 54,5 miliardi le tasse che gli italiani a vario titolo hanno pagato. Oggi Libero da questa notizia che, messe in fila le due cose, anche se sono cose slegate, fanno titolo di prima pagina e fanno anche abbastanza arrabbiare. Prima ci tassano, poi ci derubano. Il titolo di Libero, proprio nel giorno delle tasse, arresti in casa del fisco. A pagina 3 di Libero, Attilio Barbieri racconta: tassati molto, truffati altrettanto. La notizia di ieri all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia: sono scattate le manette, gli arrestati 5 tra funzionari dell'amministrazione, ex dipendenti e non meglio specificati fiancheggiatori. Della partita è anche un candidato sindaco alle ultime amministrative, sempre in provincia di Reggio. Insomma, l'ipotesi di reato a cui sta lavorando la procura è contattati commercianti artigiani in crisi sottoposti ad accertamenti fiscali, proponendo loro possibilità di archiviare la pratica ed evitare sanzioni pagando tangenti che si aggiravano sui 10.000 euro a testa. Ecco, l'idea di Libero è questa: proprio nel giorno della spremuta fiscale si scopre l'ennesimo episodio di corruzione tra Agenzia delle Entrate, Equitalia e Finanza. Tassati e derubati, questo è il senso dell'articolo di prima pagina di Libero. Ieri vi ricordate che abbiamo parlato a proposito di soldi, soldi che mancano, di partiti che sono in cerca di finanziamenti, partiti in difficoltà? La notizia di oggi che appare su tutti i giornali: Forza Italia, l'ora dei licenziamenti. Per la verità avviene con i dipendenti del Popolo della Libertà, disciolto da quando si è riformata Forza Italia. Sono partite le lettere, come racconta Repubblica, ma racconta anche Libero, sotto il titolo Spending Review di Silvio: Forza Italia licenzia 41 dipendenti. Sono i dipendenti del Popolo della Libertà che, appunto, essendo disciolta, non sono più necessari. Tra l'altro, noi avremo ospite Maurizio Bianconi per parlare di riforme, spesso nostro ospite di Forza Italia, lui che era il tesoriere del disciolto Popolo della Libertà, ci racconterà di questa notizia. Trovate di cronaca anche molto sulla vicenda che ha dei barlumi di speranza di Michael Schumacher, ex pilota di Formula 1, che sapete dal 29 dicembre scorso, dopo un incidente sugli sci, era in pratica in coma. 6 mesi dopo l'incidente apre gli occhi e comunica. La notizia è questa, ovviamente raccontano i giornali che è tutta una vicenda che ha bisogno di una riabilitazione lunghissima nel tempo. Sono momenti sporadici quelli in cui però l'ex pilota della Ferrari, campione del mondo, pare sia in grado di reagire soprattutto alle voci della moglie, dei familiari, aprendo gli occhi e facendo capire che li riconosce, fuori dal coma, ma la portavoce annuncia: ora ci vorrà una lunghissima riabilitazione. La situazione, insomma, per Schumacher diventa e rimane molto molto difficile. Sempre per la cronaca, voglio tornare su Libero, perché Filippo Facci firma oggi un articolo in risposta a un articolo di ieri di Maria Laura Rodotà sul Corriere della Sera, che si lamentava la Rodotà perché Milano è una città contro i ciclisti, che non fa molto per chi va in bicicletta. Siccome il tema è molto dibattuto, so che molti italiani sono affezionati al tema bicicletta sì o no, oggi Filippo Facci fa un articolo polemico, molto duro, nei confronti, e questo è il titolo: basta con la nuova casta dei ciclisti da metropoli. Filippo Facci si attirerà non poche antipatie scrivendo: a Milano, perlomeno in centro, sono i fighetti e i benestanti a usare la bicicletta, sono loro che scassano l'anima a tutti perché hanno scoperto che Milano non è Amsterdam e che nessuno li sopporta più. Vivono in zone centrali o semicentrali, spesso non hanno colore politico e possono permettersi di pedalare senza abbruttirsi sugli orridi mezzi pubblici che premono dalla periferia, ondeggiano pericolosamente, caracollano in mezzo alla strada, come a dire che l'errore sono gli altri, l'errore siamo noi, noi che ci limitiamo a correre e a brigare come Milano fa da un'ottantina d'anni. E allora compratevi un'elettrica o un'ibrida se non volete la macchina, voi ecologisti chic. A Milano hanno già fatto tanto per i ciclisti, piste che ogni giorno sono maledette da migliaia di ordinari non ciclisti. Penso alle piste sui bastioni che ingorgano mezza città per favorire qualche casalinga che corre a casa a prendere il SUV di 8 metri da piazzare davanti alla scuola del figlio. E però no, i ciclisti vogliono di più. Ti citano Bilbao, Reggio Emilia, come se avesse un senso. Ma Milano è una metropoli che non è stata concepita per le biciclette, punto. Se fosse concepita per le biciclette non sarebbe Milano. Le facciano nelle periferie le piste ciclabili, quelle dove i ciclisti non hanno la sella di cuoio né il cestino di Vimini col fiocchetto. Invece no, dobbiamo beccarci la predica dalla prima pagina del Corriere. Così Filippo Facci, insomma, si scaglia contro i fighetti in bicicletta. Ma siamo al momento conclusivo. La carta costa oggi va alla Stampa, che dedica una pagina a Pitti, e va bene, apre Pitti a Firenze, ma guardate il titolo: vestiremo alla Renzi. Alla Renzi! Ci sono gli stand, Renzi contagia gli stand, Maria Corbi racconta i toni blu, l'azzurro, le giacche di lino, le giacche alla Fonzi, ma dai, manca la geografia. Il primo che si candida alla geografia vincerà la carta costa per sempre. La geografia di Matteo Renzi. Manca questo. Candidatevi.